140 caratteri. Una settimana di spettacoli. Di Marta Cagnola. Un saluto da Marta Cagnola, gli spettacoli, i protagonisti, le storie, il dietro le quinte. Abbiamo seguito tutti gli eventi con Radio 24. Li abbiamo raccontati in tempo reale su Twitter con il mio account @ Marta Cagnola. Ecco il protagonista dell'intervista di oggi di 140 caratteri. Festival Voci per la Libertà, Rosolina Mare. È uno dei giovani cantautori più talentuosi del momento. Estate in tour con il nuovo album Cosa siamo diventati per Diodato. Io in realtà sono partito da alcune considerazioni personali, no? Che venivano poi da una storia vissuta mia. Però ovviamente quando poi ti guardi dentro, in qualche modo, inevitabilmente in quell'interiorità rientra anche tutto il mondo che ti circonda. E quindi lo sguardo si è allargato un po' anche al mondo fuori, anche se questo, ripeto, è un album molto intimo, che volevo proprio puzzasse di intimità. Che detta così non è bellissima, però era proprio l'intenzione che avevo. Antonio, ma gli uomini non parlano mai d'amore, cioè non dicono mai la verità. Cosa hai fatto tu? Cioè, di solito gli uomini sono, no? Ho fatto una follia e me ne sono pentito, non lo fate mai. Perché tu leggi i testi e dici, ma ci ha raccontato delle cose, di solito l'uomo non deve chiedere mai. Qualcuno mi ha detto che è un album molto femminile, mi è stato detto, e l'ho preso come un grandissimo complimento, quindi sono felice. Chiedilo al vento, cosa gli ho detto di te, cosa è venuto a cercare il mio sguardo. Che soddisfazioni ti ha dato? Che cosa hai raccolto da questo album? Mi ha sorpreso molto perché, ripeto, mi aspettavo di raccontare qualcosa che fosse solo mio. E in realtà la gente che l'ho ascoltato e che lo ascolta anche in questi live che stiamo facendo mi dice cose meravigliose e si ritrova tantissimo nelle parole, nelle mie parole. Quindi è probabilmente ciò che mi ha spinto a iniziare a fare musica, no? Io ascoltavo questi grandi cantautori e pensavo quelle canzoni fossero scritte per me. E quindi quando la gente mi viene a dire queste cose mi fa un grande complimento e sono molto contento. Credo questo album viva proprio di queste cose qui. Tu hai avuto dei momenti di grande esposizione televisiva, mediatica, poi invece per un certo periodo non ti abbiamo sentito, evidentemente stavi scrivendo. Adesso a che punto ti trovi? Perché io ho letto delle interviste in cui dicevi, ad esempio, mi sento lontanissimo da quello che è stata ad esempio la mia esperienza a Sanremo. Tu a che punto ti senti adesso? Ma è un viaggio che continua, a volte sotto i riflettori, a volte è la vita di tutti i giorni che poi ti porta anche a scrivere le canzoni. Quindi sono stato un po' fuori e lontano dai riflettori perché dovevo vivere per poter scrivere. E ora sono in una fase in cui sto suonando e sto vivendo contemporaneamente, quindi credo arriverà qualcosa di nuovo anche molto molto presto. Che impressione ti ha fatto fare un tuo disco con cose tue, con racconti tuoi, dopo che invece avevi raccontato, avevi preso in prestito le voci, le canzoni e le storie di altri? Beh, credo che quel lavoro a Ritrovar Bellezza mi abbia influenzato tantissimo e l'ho fatto proprio per quel motivo, perché quelle canzoni lì avevano una leggerezza che però non era per niente superficialità, non sapeva in nessun caso di superficialità, ma anzi era profondità. E quindi ho cercato in questo lavoro qui di farmi influenzare il più possibile da quelle rivisitazioni e spero di esserci in qualche modo riuscito. Io le influenze le sento e spero si sentano. Noi ci stiamo incontrando in questo momento in un festival importante che parla di diritti umani e che è un festival legato ad Amnesty International. Tu ti sei legato a una causa in particolare molto importante, che è quella della tua città, Taranto. Non ti sei mai risparmiato nell'impegno sociale, cioè hai sempre accompagnato il volerti esprimere, il voler raccontare anche la tua storia, la tua autobiografia con un impegno importante per te, però? A me viene molto naturalmente, cioè è una cosa che mi viene così. Probabilmente perché vengo da una città che ha queste due facce. Da una parte una città molto bella, una città che ti racconta tantissime cose con la sua bellezza, però te ne racconta tante altre con tutto quello scempio che è stato fatto negli anni. Quindi mi sono sempre sentito quasi in dovere di dover raccontare il più possibile la bellezza di quella terra, e non solo, di poter prestare la mia voce quando è possibile ad associazioni, a manifestazioni che in qualche modo vogliono raccontare una visione diversa del mondo, che è una visione assolutamente possibile. Ciò che in qualche modo sta succedendo a Taranto, nella mia terra, con ovviamente battute d'arresto e poi ripartenze, però è una piccola rivoluzione importante che io seguo, tengo molto come esempio. E anche lì si parla ovviamente assolutamente di diritti umani, proprio del diritto alla vita, quindi sono felicissimo di essere qui poi in un anniversario importante come il 20° anno di un festival illuminante. Ed è tutto per questa puntata di 140 caratteri con Diodato. Continuate a seguirci ogni giorno con il mio account Twitter @MartaCagnola. Le interviste di 140 caratteri tornano ogni domenica dopo il giornale radio delle 8.